prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Buongiorno e benvenuti alla prima volta. La puntata di oggi ha per protagonista un musicista israeliano, Eyal Lerner. Da qualche anno Eyal viaggia per le scuole d'Italia coi suoi amici musicisti, realizzando spettacoli che parlano di poesia, di storia e creano legami accoglienti, abbattendo pregiudizi. Questo è quanto accaduto anche col suo ultimo lavoro, quello ispirato alla poetessa ungherese Hannah Zenetz, considerata eroe nazionale in Israele. Una donna coraggiosa, brillante, ottimista, ma uccisa dalla violenza nazista. Eyal le ha dedicato uno spettacolo meraviglioso e allora partiamo proprio da qui. Il tema è basato su una poesia di una ragazza ebrea molto famosa nel mondo ebraico israeliano per il suo coraggio e talento, ungherese, che a 17 anni immigrò in Palestina lasciando la famiglia per naturalmente creare una soluzione per la questione ebraica europea, ma poi sapendo della situazione in Europa, si arruola nell'esercito britannico come paracadutista per poter tornare con la speranza di salvare gli ebrei ungheresi. Poi fu catturata, torturata e dopo 4 mesi di questi servizi fu uccisa, però era anche una poetessa, una ragazza brillante. E una delle sue poesie molto essenziali, molto toccanti, c'è la frase proprio «Mio Dio, che non abbiano fine mai», e parla della meraviglia della natura e della preghiera dell'uomo, che non abbiano fine mai. Questo è basato dal suo titolo, e lo spettacolo intreccia la sua storia personale all'interno degli avvenimenti storici sia della guerra, del fascismo e soprattutto della sua. Questa dunque è la storia di Eyal Lerner, un flautista israeliano di fama internazionale che ha saputo creare un legame forte tra la storia collettiva di un popolo e la sua storia artistica. Da anni ormai Eyal vive in Italia e si trova a girare l'Europa con spettacoli che aiutano le persone a non dimenticare. Quest'anno il titolo era «Che non abbiano fine mai», un verso per esortare a non far finire mai la bellezza nel mondo, non lasciare che questa soccomba, che venga distrutta dal cinismo, dalla fretta furiosa e dalla mancanza di gioia. Eyal è giovane e ha un progetto bellissimo che già porta nei teatri, un progetto che si chiama Voci di Pace, un gruppo di musicisti ebrei, musulmani e cristiani che si esibiscono assieme. Ma prima di arrivare qui bisogna attraversare la storia di Eyal e della sua famiglia. A metà della mia famiglia, i familiari dei miei nonni sono finiti ad Auschwitz e nelle mani dei polacchi che hanno collaborato con i nazisti, perciò si può dire che la Shoah ha trovato me più che io ho trovato la Shoah. Però è vero che provenendo da Israele, a volte il tema della memoria della Shoah può sembrare, non dico scontata, però normale. Mentre qui in Italia, arrivando come musicista classico, pian piano mi sono avvicinato alle mie radici, alla mia musica, ho cominciato a cantare, a fare anche teatro. A un certo punto ho capito che dentro di me uno dei desideri più importanti è trasmettere e condividere la memoria ebraica anche della mia famiglia. E non c'è altro modo, non c'è un miglior modo che la musica, il teatro e le testimonianze. E perché la musica comunque apre il cuore, trasmette emozioni e si può anche dire che mette in pausa un attimo la mente, che comunque fa fatica a comprendere questo avvenimento. ed è bene che si apra il cuore. A volte attraversando il cuore la mente riesce a elaborare meglio. Tu perché hai scelto uno strumento a fiato? Perché hai scelto e come ti sei avvicinato al flauto? Diciamo, se ci puoi raccontare qual è stato il tuo percorso nel diventare musicista? Che non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando, però sono curiosa perché mi affascina poi vedere come le cose si intrecciano, no, nella vita delle persone. Ti ringrazio. Sono partito suonando il flauto dolce, come i numerosi bambini in tutto il mondo. Mi hanno comprato un piccolo flauto di plastica a 9 anni. E sostenuto dalla passione per la musica di mio papà, che era a sua volta da bambino un cantore nel coro di Voci Bianche della sinagoga, questo amore anche per la musica italiana, devo dire, per l'opera, per le canzoni napoletane, lui ha cercato di trasmettermi sostenendomi nello studio del flauto dolce. Però sono partito come un bambino comune. Avevo una grande fortuna, oltre ad avere un papà così passionale e didattico, anche di trovare ottimi insegnanti. In quel periodo c'era la moda della musica antica e così mi sono trovato proprio diciamo, all'avanguardia della musica antica. Mi sono migliorato, ho suonato con orchestre già da bambino, ho suonato Vivaldi e lì si è creato il legame con l'Italia. Poi ho fatto il servizio militare ormai 18 anni dopo aver vinto premi, ma qua in Italia da 23 anni, appunto, come dicevo prima, mi sono avvicinato alle mie radici. Dopo pochi anni di studio del flauto ho cominciato a cantare e ho cominciato a dirigere il coro di musica ebraica, coro ebraico della comunità ebraica di Milano, Kolot. E grazie a loro ho scoperto un nuovo mondo che esisteva comunque nella mia famiglia. Dopo un po' di anni ho avuto la fortuna di collaborare, di essere invitato da Moni Ovadia come attore, anche se non avevo esperienza come attore, a partecipare come un protagonista nel musical Violinista sul tetto, che ha avuto molto successo a quei tempi. E da lì altri musical, altra crescita. A un certo punto, un po' di anni fa, ho scoperto che in realtà tutte queste diverse identità, la musica classica, il flauto, la musica barocca, il canto, la memoria del popolo ebraico con la sua meravigliosa musica e anche questa esperienza del teatro hanno creato una vocazione, un'identità che ha spazio per tutti questi elementi che prima erano un po' in conflitto fra di loro. E adesso la cosa che mi rallegra di più è che tutti i miei spettacoli, anche di musica classica, così, in modo forse inconscio, sono indirizzati ai giovani, alle nuove generazioni. E mi diverto molto perché vedo che per loro mi sento che quello che faccio ha più valore. Perché loro rispondono veramente in maniera empatica, no? Quando ci sei loro lo sentono, i ragazzi sono più collegati in questo senso. Sono una spugna, hanno meno pregiudizi e il loro cuore è ancora fresco e la musica è veramente un linguaggio che va al di là del pensiero, però risveglia il pensiero, non lo distacca, lo affina. Ma poi credo che ogni artista trova la sua missione o vocazione. Io credo che la musica da sola, per conto suo, è un po' limitante oggi. La gente cerca anche i collegamenti fra la cultura e la vita quotidiana. L'estetica staccata dalla quotidianità credo che è un po' elitaria, un po'... A volte può creare anche un distacco. Sì. Perciò per me è molto importante. I giovani quasi invitano a questo tipo di dialogo e di discorso, come la musica può illuminare la vita semplice, quotidiana, le difficoltà, i conflitti. La bellezza ricercata nella vita quotidiana diventa dunque il percorso di Eyal Lerner, musicista israeliano da anni in Italia, flautista quasi per gioco, oggi rappresentante di tutta una generazione e testimone di un passato ebraico fatto di grande bellezza e di grande dolore. Ma di questo continuiamo a parlare tra pochissimo, ora ci dobbiamo fermare per qualche istante e dare la linea alla viabilità. La prima volta. La prima volta. Bambino Eyal Lerner che inizia a suonare il flauto dolce per gioco. Ad insegnarglielo è il padre. Da uno strumento tanto bisfrattato e spesso tormento per genitori e alunni, Eyal trae il meglio. Lo suona così bene da vincere concorsi prestigiosi, da viaggiare per teatri, da scegliere di farne un mestiere. Un musicista viaggiatore e generoso che negli anni si esibirà in Israele, poi in Inghilterra, Spagna, Italia. L'Italia sarà uno dei posti dove tornerà più frequentemente, raccontando col suo flauto e tanta ricerca storica una parte della nostra storia che mai dovremmo dimenticare, quella relativa alla deportazione ebraica attuata dal fascismo. E la musica è veramente un linguaggio che va al di là del pensiero, però risveglia il pensiero, non lo distacca, lo affina. Ma poi credo che ogni artista trova la sua missione o vocazione. Io credo che la musica da sola, per conto suo, è un po' limitante oggi. La gente cerca anche i collegamenti fra la cultura e la vita quotidiana. L'estetica staccata dalla quotidianità credo che è un po' elitaria, un po' a volte può creare anche un distacco. Sì. Perciò per me è molto importante. I giovani quasi invitano a questo tipo di dialogo e di discorso, come la musica può illuminare la vita semplice, quotidiana, le difficoltà, i conflitti. Infatti negli anni, non ho detto prima, ho sviluppato anche degli incontri musicali anche con musicisti arabi che vivono qui in Italia, tentando di creare un dialogo molto umile, senza pensare di cambiare il mondo, però dimostrare che tramite la musica si può creare un nuovo mondo, piccolo, però autentico e sincero, che a sua volta incoraggia la persona di fare altrettanto. Perché voi poi, soprattutto, adesso hai parlato della cultura araba, però in realtà si parla spesso, soprattutto quando i conflitti su Israele si inaspriscono, si parla spesso di cultura, di culture diverse, ma in realtà la base poi alla fine è molto simile, se ci pensiamo, no? Per cui anche la musica araba e la musica ebraica israeliana, sì, in qualche modo ha una matrice comune, ha una base comune. Senz'altro, sono popoli che sono nati nel deserto, entrambi, hanno un componente orientale forte, popoli in cammino, i più grandi musicisti in Iraq, in Iran, in Egitto erano ebrei, in Spagna, che a me piace molto raccontare la sua storia, come prima della cacciata degli ebrei del 1492, gli ebrei musulmani e cristiani hanno collaborato, erano grandissimi uomini di cultura, di scienza. Non c'è la differenza fra l'estetica, il pensiero e la quotidianità. Perciò questo è un fatto scontato, che però la politica ama molto passare sopra, perché la cultura unisce e la politica divide. E poi la mancanza di cultura rende anche più debole il singolo. Senz'altro, però non basta oggi la cultura in sé, perché c'è il pericolo che cadiamo nell'autocompiacimento della bellezza e dell'estetica, e invece, almeno per me è molto importante sviluppare all'interno della cultura la cultura dell'umanità, dell'uomo, del dialogo, perché la cultura può anche creare chiusura, un sentimento che solo la propria cultura esiste e prevale. Invece quella curiosità di cui hai parlato tu deve anche incentivare alla curiosità del dialogo e alla conoscenza, perché l'ignoranza è uno dei mali più pericolosi. L'ignoranza e l'arroganza. Senz'altro la cultura e la musica sono fattori che aprono al dialogo, perché usano linguaggi veramente universali. È una cosa ormai che si sa, è banale, però è così. No, non è banale invece, perché a volte dietro al fatto che appunto ci si vergogna, no, a parlare così in maniera quasi semplice, basilare delle cose, poi non dicendole più è come se non ci fossero. Volevo farti un'ultima domanda: ti ricordi la prima volta che hai suonato in pubblico, che cosa hai provato? Cioè, se te lo ricordi la sensazione? La prima volta è stata nella scuola. È una cosa curiosa, perché c'era molta invidia da parte dei bambini, perché già suonavo, facevo spettacoli, così forse, però man mano mi hanno invitato a suonare nelle cerimonie delle scuole, e lì devo dire che ho un po' guadagnato diciamo il riconoscimento, anche l'amicizia. Ero anche un bravo calciatore, forse questo mi ha salvato di più, non lo so ancora, però però poi hai scelto la musica, non il calcio. Alla fine la musica ha preso il sopravvento. Sicuramente avrei guadagnato più denaro come un calciatore, ma forse nel cuore sono diventato più ricco. Mi auguro. La prima volta termina qui. Vi ringrazio come sempre per essere stati con noi e per l'ascolto. L'appuntamento è per domenica prossima alle 13.30. Venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook Radio 24 La Prima Volta, oppure scriveteci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli. Non è niente, non è niente, che si possa dire, passerà anche questa volta. Non è niente, non è niente, è difficile spiegare, uscirò da questa porta.